Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. E cosa si fa di bello in Italia? Sono un pianista, jazz. Insegno qui al conservatorio. Insegno jazz. E sono al piano, via. E così allora non ce l'ha un lavoro, eh? Le ho detto che sono pianista. Certo. Sì, insomma, soltanto quel lavoro lì, eh? Perché per lei suonare non è un lavoro. Cos'è, una buffonata? No, che dice? No, si figuri se mi permetterei. Anzi, gli dirò. In famiglia c'è una cugina che suona il... vino. Cosa? Vino. Il pianino. Nel 1959 Florence Green passava ogni tanto una notte dopo la quale non sapeva con certezza assoluta se avesse dormito o no. Questo era per via del rovello se acquistare una piccola proprietà, la Old House, con un suo deposito sul litorale allo scopo di aprirvi l'unica libreria di Harborough. L'incertezza probabilmente la teneva sveglia. Una volta aveva visto un airone in volo sull'estuario tentare, restando in aria, di inghiottire un'anguilla che aveva catturato. L'anguilla a sua volta si dibatteva per svincolarsi dalla gola dell'airone e ne sbucava fuori per un quarto, una metà o ogni tanto tre quarti. L'indecisione manifestata da entrambe le creature era penosa. Avevano azzardato troppo. Questo era l'incipit della Libreria di Penelope Fitzgerald. Il loro nome è The Walkmen, sono un quintetto di New York e 100 Miles Off, questo è il titolo dell'album che negli Stati Uniti è uscito ormai da qualche mese, in Europa arriva solo oggi, solo in questo periodo. E in Eclettica trovano spazio con il brano dal titolo Louisiana, Tally Trace, l'etichetta grazie alla quale arrivano in Europa. Vi siete già sentiti l'incipit, vi siete già anche sentiti lo spezzone per quanto riguarda questa seconda parte di Eclettica del film di questa settimana. Vi avevo detto durante la prima parte che vi avrei aiutato magari con il titolo, vedo di non mantenere questo impegno, vi aiuto solo con il regista, Dario Argento. Jacob's Stories è invece il brano che ha aperto Eclettica in questa sua seconda parte, Gravity Deep è l'etichetta per per cui esce l'album dal titolo Fledgling, dal quale noi per il momento ci stiamo ascoltando Unfinished Idea Number 209. Dico per il momento perché sicuramente ci saranno anche altre tracce che ci ascolteremo da questo disco. Ora ritorniamo su quello che è l'ultimo album dal titolo Air Force da parte degli Shoo Shoo. Sickly light that is daytime in your embarrassed town burns a hole in the fading yellow ribbon on your fading wine-colored cavalier. The mine has fallen down on you as you dug a well of death. Milk and sugar water in brief sympathy with them. When we see the hate in your eyes, it doesn't make us better men. The mine has crushed your brother as he ruined our rotting sky. Hot blast of black hot powder, and you lapse into a real boy. The mine has fallen down on you as you dug a well of death. Tears and sugar water flow in briefest sympathy with them. Refrigerator, crying for the stupid world we share. Walla walla walla walla walla walla hey. C'est È un album di remix, questi, di remix dell'album Impossible Broadcasting, quindi questo si intitola Impossible Rebroadcast. È la collaborazione dei Trans Global Underground e del loro ultimo album rifatto assieme al Mafia di Reggio Emilia. Diversi DJ, non necessariamente italiani, per esempio il francese, quello che ha rimesso le mani a The Sick Man and the Rust, al brano che ci siamo ascoltati quest'oggi, di nome Alex Kasiek, questo è il nome del DJ intervenuto su questo brano, su cui sono intervenuti anche altri due DJ, e così via, in un passaggio da un brano all'altro per arrivare al dodicesimo, che invece è una traccia dal vivo, quasi così a suggellare le due anime, da un lato quella di live band, dall'altro quella di un sound system più orientato ai club, tra cui si è sempre divisa la formazione dei Trans Global Underground. Questa è Eclettica sulle frequenze di Rock FM, la musica ve lo sta confermando di volta in volta che il nome della trasmissione ha una sua ragione d'essere, in compagnia di Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera di Eclettica, per esempio per ricevere le playlist di questa trasmissione con l'elenco di tutti i brani che vi sentite trasmettere. Per esempio, è molto importante leggere quella playlist per sapere come si intitola il brano del disco More Music che ci stiamo per ascoltare. Un disco che proviene dall'Islanda, anche se è stato realizzato dopo alcuni mesi di visita dell'Italia da parte di Benny Hamm, che è ovviamente è uno pseudonimo, ed è un brano intitolato appunto in islandese, quindi io non mi arrischio assolutamente a così tentare di pronunciarlo. Vi rimando alle playlist. Poi questa seconda parte di Eclettica vedrà il ritorno, visto che settimana scorsa non ci sono state, delle mosche e del ragno, dei newyorkesi The Low Lows. Per il momento però Benny Hamm. Eclettica, fine della seconda parte.